English 24. Buonasera e buon Natale da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Vigilia di Natale, tra qualche ora apriremo i regali, ma ora è il momento del nostro appuntamento settimanale con English 24. In questa e nelle prossime due settimane ci dedicheremo agli incontri più belli ed emozionanti che abbiamo avuto la fortuna di fare in questa stagione. Registi, cantanti, scrittori, insomma soprattutto grandi personaggi della cultura anglosassone con cui abbiamo chiacchierato nelle ultime settimane. Partiamo da Jonathan Demme, lo abbiamo incontrato in occasione del Milano Film Festival in settembre. Lì ha presentato il terzo capitolo della trilogia Neil Young Journeys e ci ha parlato della sua passione per il documentario. I always had a passion for fiction films from when the time I was a little boy. But this passion for documentaries kind of snuck up on me over the years. If you can combine valuable truth in the story of a fiction film, and I think we did that with Philadelphia, now you're really on very strong territory. Likewise, if you can find a profoundly dramatic, really gripping story in reality, now you're, I think, on equally strong territory. But I would do anything for the world of documentary. It's just difficult to make a living in it. Lui parla in maniera molto, molto chiara, ma racconta in maniera appunto molto trasparente la ragione per cui a un certo punto si è innamorato dei documentari, ma confessa anche non è facile fare regista solo di documentari, anzi quasi impossibile. Sì, ci spiega che lui è sempre stato un had a passion for, quindi esattamente come in italiano, ovvero una passione per, quindi to have a passion for something or for someone, in questo caso for fiction films, un film che non è un documentario, perché film letteralmente sarebbe la pellicola. Perciò anche i documentari ovviamente sono pellicola. Se si vuole fare la differenza senza paura di essere fraintesi, bisogna spiegare che appunto i film, quelli che vediamo sempre, quelli che chiamiamo anche noi film e basta, sono i fiction film, cioè sono dei film che raccontano una storia, non sono dei documentari. E questi fiction films gli piacevano in realtà da quando era bambino. I documentari invece? E poi però questa passion for documentaries snuck up on me, to snuck up on someone, on me, on something, vuol dire proprio atterrare su di me, coinvolgermi, avvolgermi. Ecco, questa passione mi è capitata, mi ha preso e non se l'è più tolta di dosso, perché lui dice che tutto sommato, cioè, ci metto sempre qualche cosa che ha un valore, diciamo, didattico, se vogliamo, cioè to combine value truth in a story for a fiction film, quindi mettere delle verità, proprio value truth, che può sembrare quasi un'inutile sottolineatura, però verità può essere anche un fatto di cronaca, ma un value truth è qualcosa proprio di valore. Naturalmente in Philadelphia era il tema dell'AIDS. La stessa cosa, forse ancora più forte in un documentario, certo è che anche nel documentario bisogna combinare certi aspetti, insomma deve comunque catturare il pubblico. Ed è interessante questa cosa che dice you are in a strong territory, cioè è chiaro che a lui sta a cuore fare questo, dare dei messaggi forti e chiari, quindi essere in quello che lui chiama un territorio forte. E poi usa questa espressione likewise, che vuol dire nello stesso modo, ma in realtà questo wise, se lo attacchiamo ad altre cose, è molto interessante, perché non so, se si dice beauty wise vuol dire dal punto di vista della bellezza, oppure lengthwise dal punto di vista della lunghezza, quindi è un altro di quelle cose molto pratiche e utili dell'inglese che ci permettono di racchiudere in una parola di 8-10 lettere un'espressione che per la quale noi dobbiamo utilizzare 3-4 parole. Allora lui dice: farei qualsiasi cosa, I would do anything, per il mondo dei documentari. But lo dice, purtroppo lo dice ridendo, risata amara. It's difficult to make a living in it. To make a living vuol dire riuscire a guadagnare per poterci vivere. Quindi poter vivere di documentari, diremmo noi in italiano, è difficile, se non impossibile. Passiamo ora a un altro incontro, quello con Susan Ray, con cui abbiamo parlato a Venezia. Lei lì ha presentato We Can't Go Home Again, il restauro dell'ultimo film incompiuto del marito Nicholas Ray. I think it's a very contemporary film. I think it's a film that is more accessible today than it was 40 years ago. I think that it's multiple image. It is more reflective of today's consciousness than of the time when it was made. I mean, this is a time when young people are multitasking, and if you look at a magazine, it's laid out in a similar way where there are all these images and they overlap, and they, I think Nick was just ahead of his time, and the time for this film is now. Spesso parliamo di uomini che hanno avuto una visione che andava al di là del loro tempo, e questo aveva fatto Nicholas Ray. The time for his film is now. Cioè, lui aveva fatto questo film negli anni 70, l'aveva presentato in una versione così temporanea nel 1973, ma il tempo per questo film è adesso. Perché, dice Susan Ray? Tra l'altro è interessante usare questa parola contemporary, che poi è anche temporary, che conosciamo tutti per via di questi temporary store, per esempio, che vediamo, questi negozi temporanei, perché è la traduzione naturalmente di contemporaneo, però vedete che è un po' un false friend, perché nel creare questi aggettivi in inglese si usa un suffisso che è ry, che quindi suona un po' strano per noi, perché se lo trovessimo a tradurre letteralmente sarebbe contemporario, non contemporaneo. Quindi attenzione, contemporary, contemporaneo, come è questo film, e temporary e non temporaneo, per esempio per appunto quei pop-up store, quei negozi che vengono fuori e poi spariscono nel giro di poche settimane. Quindi un film molto contemporaneo, perché? E qui tra l'altro notate l'uso del more accessible. Accessible è un aggettivo lungo, quindi sappiamo che quando gli aggettivi sono lunghi non possiamo usare il suffisso er per fare il comparativo, ma dobbiamo usare more, quindi more accessible today than it was 40 years ago, quindi è più accessibile letteralmente, quindi più fruibile, più comprensibile, perché è un film fatto, come diceva Marta prima, con questa tecnica delle multiple images, e quindi secondo Susan è more reflective. Attenzione, qui non è riflessivo, ma nel senso che riflette, quindi riflette today's consciousness, secondo lei. Noi viviamo un po' in questo tempo di multitasking, di multiple images, di devices che fanno tutto, e prima accennavi a Steve Jobs, beh, pensate a quante cose si possono fare con un solo iPhone o addirittura con un iPad. Quindi Nick, lei chiama così suo marito affettuosamente, was ahead of his time. Quindi ahead of his time, quindi avanti rispetto al suo tempo, e quindi il tempo del film, il tempo for this film is now, quindi è ora, e appunto è, se ci pensate sono passati anni, e effettivamente io non l'ho visto, ma Marta mi assicura, io le credo che è assolutamente, come dice Susan, accessible. Adesso chiudiamo con la musica. È stato a Milano in ottobre per presentare il suo progetto con l'italianissima Simona Molinari, ma lui è un giovane cantante americano, Peter Sincotti. Dal cognome chiaro, però lui è di origini italiane. Ma qual è il suo rapporto con il nostro paese? Gliel'abbiamo chiesto. I've read some of the articles and some papers regarding some of the issues, but I mean, I just go by my personal experience here has always been great. Italy's one of the few places that I keep coming back to, regardless of whether I have something to promote or not, you know? So it's a special place. Also, I have, you know, a family history here generations ago. But all of that aside, I just like being here. I love the audiences. So it's a pleasure to come back, you know. So that's what I go by. And that's it. But it's a great country, you know. You know, it's a great country, è un grandissimo paese, lo ammette, ha una storia familiare che ha a che fare, anche se qualche generazione addietro, con l'Italia. Lui ha un bel rapporto con l'Italia, Peter. Sì, e quindi dice, certo che I've read some of the articles regarding some of the issues, insomma, in modo molto diplomatico dice che ha letto, usando questa forma verbale che non è semplicemente I read, cioè io ho letto, ma I have read, che ci dà l'idea che lo ha fatto anche di recente, quindi si aggiorna, gli interessa l'Italia, quando vede un articolo sull'Italia lo legge, e tutti sappiamo che in questo momento di noi all'estero si parla anche per così, per questi issues non propriamente, come potremmo dire, lusinghieri. Però lui è qui, non so se per ragioni diplomatiche o forse davvero ci dà l'idea che poi alla fine, quando qualcuno viene in Italia, non conta quello che è stato detto sui media. I just go by my personal experience. To go by something vuol dire basarsi su, quindi quello su cui io mi baso è la mia esperienza personale, e la mia esperienza personale è che Italy is a special place. Is a special place. E lui dice una cosa molto carina: io vengo anche se non devo promuovere dei dischi. Sì, dice proprio: it's one of the few places I keep coming back to. To keep coming back to something, e vuol dire continuare a tornare in questo posto. Quindi è chiaro che un artista come lui avrà richieste di tour da tutti i paesi del mondo, però regardless of whether I have something to promote or not, quindi non importa se ho qualcosa da promuovere o no, io ci torno. E poi vabbè, poi ci racconta che ha una family history, gli americani sentono molto questa cosa, anche se poi appunto il suo cognome lo pronuncia giustamente Cincotti e non certo Cincotti. Ed è tutto per la prima delle nostre puntate festive dedicate agli incontri dell'anno di English 24. Vi ricordiamo l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di buona serata e buon Natale.